Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Ignoti approdi, quali trasformazioni sta attraversando Bologna, quali futuri possibili realizzerà e quali approdi scarterà? Se ne parla con economisti, architetti, scrittori e altri sguardi per ipotizzare, analizzare, sfruttare gli approdi possibili e creare un agire in comune. Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Dal 15 di ottobre, dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. www.aeliamedia.org. Ciao a tutti, sono Katia Barani con Ignoti Approdi e qua fuori siamo in Piazza Pontoni in diretta in streaming su aeliamedia.org. E c'è una festa di laurea, a quanto pare. Qualcuno che si è appena laureato. E sta festeggiando. Che la stiamo aspettando? Facciamo un po' di musica. Abbiamo degli ospiti qui. Devo chiedere prima a loro. Assolutamente d'accordo, via. D'accordo? Che cosa volete come musica? Quella che carica. Ma non lo so cos'ho. Ciao, siamo tornati su Radio Elia Media, Ignoti Approdi, e abbiamo come ospiti graditissimi, mi sa che si sono divertiti molto, l'introduzione. Molto, sì, abbiamo Elena Del Drago. Ciao, buonasera a tutti. Giornalista dell'arte. Pablo Alghera, un artista. Nonché... Aspetta che gli do un microfono. Okay. Senza microfono. Allora, come dicevo, abbiamo Pablo Alghera, che è il patrinolo, il promotore di tutto ciò, poiché è lui che ha creato, inventato Elia Media. Se non fosse stato per lui, noi non saremmo qua. Benissimo. Pablo, per il suo progetto, come mai tutti avrete mai avuto modo di conoscere, ha creato questa radio temporanea e ha chiesto a 20 operatori di partecipare al suo progetto. Nel fare questo ci ha portato in una ci ha dato la possibilità di prepararci e ha creato per noi una scuola temporanea di giornalismo dell'arte. Io volevo appunto dialogare sulle forme di giornalismo dedicato all'arte con i nostri due ospiti. Intanto, che cosa passo la parola anche a Elena, se ci vuole intanto spiegare un po' il suo lavoro, e poi facciamo intervenire Pablo e raccontarci che cosa come abbiamo impostato la nostra scuola. Così va? Mi sentite? Ok. Il mio lavoro è di scrittura di articoli per giornali quotidiani, così, quindi in modo più classico, e poi c'è un lavoro radiofonico che quindi è quello che insomma mi rende più simile a voi e interessante da questo punto di vista, perché effettivamente raccontare l'arte attraverso la radio, e quindi attraverso la voce, non attraverso le immagini, non è semplice, non è evidente, ed è sempre stato un po' una preoccupazione per chi deve mandare in onda i programmi di arte. In realtà poi anche facendolo proprio, quindi cercando di realizzare un programma, in particolare il mio si chiama A3, quello che conduco si chiama A3, il formato dell'arte, va in onda ogni domenica su Radio 3, e quello che cerchiamo di fare è raccontare attraverso le parole una mostra, un artista, insomma un protagonista della settimana nella prima parte. Poi abbiamo due rubriche, una che si chiama Art Parade, e come potete immaginare è il meglio e il peggio delle mostre della settimana, e poi un nonsense, e cioè una follia, un piccolo fatto divertente, un po' appunto nonsense del mondo dell'arte. Sia la prima parte che la seconda parte naturalmente presenta un interesse e delle criticità. Ci siamo accorti, per esempio, per quanto riguarda la prima parte, dunque le mostre da raccontare, dell'importanza di non avere sempre il curatore a raccontare la mostra, ma piuttosto due prospettive differenti. Ho una domanda per te. Sì. Che cosa trovi più difficile di parlare di arte visive in questa maniera, parlare senza immagini? Noi ci occupiamo di arti visive, soprattutto di arte contemporanea, che paradossalmente rende più facile il compito, essendo così fortemente concettuale, comunque avendo un'idea molto forte dietro. Molto spesso si può raccontare l'idea che l'anima, e poi cercare anche di descrivere le immagini. Quindi ci siamo resi conto che in fondo l'arte contemporanea non è così differente da raccontare rispetto alla letteratura. Ecco, ha anche appunto un progetto dietro, ha una realizzazione abbastanza forte dal punto di vista delle idee, tale da poter essere raccontata. Una cosa molto difficile è invece quella di far parlare i curatori, che vengono invitati a dar nella parte della classifica della settimana, a parlare male di almeno una mostra. Questo è un fatto abbastanza interessante per quello che riguarda il giornalismo d'arte in Italia, almeno. E che cioè la critica è bandita. Esatto, infatti so che si sta parlando molto ultimamente in Italia di questo problema della critica che si tende a essere cancellata, ad avere paura addirittura a farla. Sì, noi ci troviamo ogni settimana ad invitare un curatore che deve scegliere delle tre mostre molto belle e una mostra che non gli è piaciuta per qualche motivo. E puntualmente c'è una difficoltà, insomma, se provando a dare qualche numero, il 60% dei casi c'è qualcuno che sceglie delle mostre a Honolulu o insomma molto molto lontane di curatori che non conosce, per non dare un dispiacere a qualcuno di cui è amico, che potrebbe diventare suo amico, eccetera. Quindi la grande difficoltà è quella di criticare quello che avviene, e almeno criticarla pubblicamente, quando naturalmente invece in sedi private, come appunto degli incontri assolutamente privati, dei colloqui privati, si parla sempre malissimo delle mostre degli altri, ecco. Però poi ribadirle pubblicamente ogni settimana è piuttosto divertente. Quest'anno ci siamo salvate con la Biennale di Venezia, cioè con il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, che ha dato una mostra negativa di cui parlare per almeno 2 mesi, tanto che quando invitiamo gli ospiti ormai diciamo: non parlate male del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, perché quello ormai non può essere più considerato un caso negativo, ormai insomma è stato affrontato da tutti i punti di vista. C'è stato però un ospite che ne ha parlato molto bene e siamo stati contenti almeno per la sorpresa, insomma. Ecco, questo è complicato, la critica è bandita, questo mi sembra importante da dire. Sì, anche perché poi vedo che si tende sempre di più a a parlare male di qualcosa che si è visto alle spalle, però poi al momento non si parla, ma anche perché fosse... Temo che manchi anche un pensiero forte, perché se il momento in stesso in cui tu fai critica devi adoperare, cioè non puoi soltanto dire questa cosa non mi è piaciuta o come si suol dire tra virgolette mi fa schifo, no, devi motivare il perché e motivarlo dal punto di vista concettuale, estetico, formale, eccetera. Sì, almeno io personalmente non sarei neanche così ambiziosa, cioè non chiederei neanche una decostruzione ideologica precisa, ma senz'altro quello di evidenziare delle criticità nelle mostre, sì, senza demolizione necessaria del lavoro di un'altra persona, però dire questo non funziona per questo e questo motivo, l'allestimento non funziona, gli artisti invitati non hanno lavorato bene, non c'è un progetto forte, insomma qualsiasi cosa. Ci sono dei coraggiosi che vanno e dicono, però insomma è piuttosto difficile. Certo, è chiaro che l'altro problema è quello che dicevi proprio tu, e cioè che non c'è un pensiero, almeno una teoria forte al momento, anche se anche noi in radio siamo da mesi parlando di questo neorealismo che si sta forse evidenziando come un antidoto al postmodernismo, però insomma nel campo artistico effettivamente, a parte le varie teorie relazionali, post produzioni eccetera, non c'è una idea forte per definire. Io ripartirei però proprio da notazioni di base, ecco. Cioè, quindi dire esprimere il proprio opinione, sì, senza paura né timore. Ecco, sì, sì, decisamente. Eliminare anche un po' quel velo di, chiamiamola anche ipocrisia, per poi si va. Vabbè, sì, chiamiamola tranquillamente ipocrisia, perché appunto prima di andare in onda le mostre sono tutte brutte, poi si va in onda e diventano meravigliose. C'è questo effetto taumaturgico della radio per quello che riguarda il giudizio artistico. Miracolosa. Sì, sì, sì, sì. Molto spesso avviene questo, oppure ci sono altri casi in cui si viene un po' a colpire un nemico personale, ma va tutto bene, perché insomma è anche per vivacizzare un po' il discorso. Esatto, mi trovi molto d'accordo. Vuoi aggiungere qualcosa? Io vorrei sapere chi è il pubblico che ti ascolta? È giovane? Okay. Come si può definire? Questa è una bella domanda, perché ultimamente sono stati sospesi per un problema piuttosto complicato, molto italiano, che non sto qui a descrivere, i dati di rilevazione dell'Auditel, insomma, quindi non sappiamo bene esattamente quante persone ascoltano. Ci basiamo su delle rilevazioni fatte almeno un anno e mezzo fa, che comunque insomma Radio 3 ha un pubblico piuttosto vasto, insomma tra le prime radio nazionali, in modo particolare naturalmente a 3, a parte il pubblico di affezionati di Radio 3 che è sempre con la radio accesa e ascolta qualsiasi cosa venga trasmesso, naturalmente c'è un gruppo di fedelissimi nel mondo dell'arte, ecco, quindi sappiamo che è molto seguita nel mondo dell'arte, che si diverte un po' a seguire sicuramente la prima parte, ma anche le rubriche rubrica in cui si parla bene o male delle mostre, come immaginabile. È un modo per seguire un po' il nostro pubblico è naturalmente quello dei network, dei social network, che è un po' una buona novità da due anni a questa parte per anche le radio, non soltanto perché si possono commentare in diretta i post di chi ci segue, ma anche mettere delle immagini dei lavori, eccetera, e anche naturalmente il pubblico può esprimersi, può dire cosa gli piace o non gli piace in modo ancora più immediato che non l'SMS, insomma. Infatti notavo che, a differenza della TV, internet ha fatto bene alla radio in qualche modo. Assolutamente sì, per noi senz'altro, perché appunto soprattutto Facebook poi sostanzialmente dà la possibilità di intervenire in diretta agli ascoltatori, di rispondere a dei sondaggi, di mettere le proprie immagini, le proprie foto, i propri commenti visivi anche a quello che si trasmette, quello che viene trasmesso. Quindi in effetti è veramente un aiuto, è un partner importante quello dei social network per noi. Un'altra cosa che mi interessa molto, in parte lo spiegavi prima, è quello di avere a che fare con un programma che parla comunque di arte visiva non avendo lo schermo, quindi mancando quindi tutta quello che è la parte visiva e soffermarsi solo sulla l'oralità. Sì, soltanto attraverso la voce. Un espediente è quello di non far parlare i curatori, non me ne vogliano i curatori delle mostre qui presenti, perché in effetti vengono invitati nella parte della classifica, ma meno spesso nella prima parte monografica della nostra trasmissione, perché molto spesso il curatore è troppo all'interno della sua mostra, non riesce a descriverla dall'esterno, quindi cerchiamo di coinvolgere qualcuno anche estraneo al mondo dell'arte per raccontare, chiediamo sostanzialmente di andare a visitare la mostra cercando di trovare un'affinità naturalmente tra il personaggio invitato e la mostra, e cerchiamo di farcela raccontare. In genere c'è una prospettiva abbastanza, insomma, divertente e interessante, perché è un altro modo di guardare all'arte contemporanea, di aprirlo. Ecco, il nostro tentativo, dovendo parlare ad un pubblico che non è per niente quello degli addetti ai lavori, se non in minima parte, cerchiamo di aprirlo non soltanto come linguaggio ma anche come sguardo. E naturalmente l'altra accortezza è quella di descrivere i lavori, che è un altro esercizio non molto comune, non molto diffuso, no. che generalmente viene demandato alle immagini, che invece chi viene a raccontare a noi è costretto anche a questo compito. Sì, e si ritorna sempre al discorso della critica, della storia dell'arte, prima dell'arrivo di questo secolo pieno di immagine, c'era appunto l'uso della scrittura, delle parole per descrivere un'opera, per descrivere qualcosa che non si poteva vedere, le persone in passato, prima che potessero muoversi, prima perché ci fosse la televisione o qualsiasi altra forma che ti potesse permettere, sì. Dovevi effettivamente, cioè le cose le veniva a conoscenza soltanto tramite i libri, quindi tramite la descrizione. Sì, infatti è un esercizio che chi fa radio e si occupa di arte deve necessariamente imparare a fare, quindi guardare ciò che ha davanti, cercare di raccontarne se possibile il progetto, l'antefatto, come è arrivato l'artista in campo, e poi anche descrivere il lavoro finale. E poi naturalmente far parlare gli artisti, che insomma in alcuni casi molto appaganti, in altri no, abbastanza sconfortante, però insomma. Sai, io lavoro a un museo d'arte moderna a New York, nel Dipartimento di Educazione, abbiamo trovato che la gente è molto interessante nella descrizione verbale, orale delle opere, della pittura, eccetera. C'è una guida acustica nel museo che fa questa descrizione, e c'è anche una guida acustica per la gente che non può vedere. Queste descrizioni sono esclusivamente una descrizione della pittura, la scultura, una descrizione di tutto che tu si può vedere, e tutto il mondo adora questa descrizione. La voce, la descrizione verbale è molto importante nell'esperienza. È vero. Per esempio, un problema che abbiamo è che i ridotti mezzi economici ci costringono ogni settimana ad affrontare è la grande differenza che c'è tra raccontare una mostra al telefono, collegandosi al telefono con i due personaggi invitati, e quello di raccontare una mostra invece andando con il registratore flash mic o qualsiasi altro registratore direttamente sul posto. È completamente un'altra esperienza. Anche per gli ascoltatori ci hanno raccontato che effettivamente è un'altra esperienza. Sembra assurdo perché stiamo parlando comunque appunto di voce e non di immagini, quindi in entrambi i casi non si vede nulla, eppure il microfono, la voce del conduttore insieme agli ospiti davanti alle opere ha un'altra forza rispetto al semplice collegamento. Sì, proprio decisamente. Quindi dici che c'è possibilità che anche grazie alla radio, soprattutto, forse si possa arrivare a un pubblico anche di non addetti ai lavori. Ah, scusate, mi interrompo un secondo. In realtà, dopo, se a voi interessa, c'è Giorgia Dolfini con un ospite che ci aveva chiesto almeno 10-15 minuti, perché abbiamo uno dei fondatori di Radio Alice con noi. Che bello. Però se volete parlare un altro 5 minuti, insomma, poi vi vengo. Che questo può essere anche interessante, visto che loro furono uno dei primi che provarono a portare l'arte in qualche maniera attraverso la radio. Certo. Anzi, se volete, sì, facciamo una chiacchierata, se vi va, vero Pablo? Radio Alice? Radio Alice, sì. Intanto prova a mettere un po' di musica, così intanto per... Quello che ci stiamo ascoltando è di Luigi Mastandrea. Utopita. Thank you. bentornati, questa è Alia Media, io sono Katia Baraldi con Ignoti a Prodi, ospiti con noi ci sono Pablo Alghera e Elena Del Drago e si sono uniti a noi anche Giorgio Dolfini con rullo di tamburi. Mirko Pieralisi. Ecco, Mirko che ce Pieralisi. Lo introduce Giorgio. La nostra è un'incursione, una breve scheggia, di quello che era il programma dei ragazzi del 77 che si è concluso ieri, ma oggi abbiamo un ospite a sorpresa che in realtà rientra nel nostro discorso sulla radio, che rientra perché anche Mirko attorno agli anni 70 ha partecipato a Radio Alice e in generale insomma all'informazione alternativa che si svolgeva in città. Adesso gli lascio dire qualcosa e poi continuiamo con la, sì, con la conversazione. No, io non lo... una lunga anzianità radiofonica, quella molto giovanile in Radio Alice, poi in Radio Città del Capo negli anni 90, dove invece avevo un ruolo diciamo, di direzione, ma sono legatissimo all'esperienza anche di Radio Alice, perché comunque è stata appunto un'irruzione rivoluzionaria nella comunicazione. E nel suo piccolo di una radio che stava a Bologna in quegli anni fa pensare a quello che può essere stato poi negli anni 90 internet, cioè l'invenzione di un linguaggio usando un mezzo alla portata di tutti. Era 1976, fino a quel momento attraverso la radio e la televisione arrivavano i messaggi ingessati dall'alto verso il basso e Radio Alice ribaltava tutto e quindi determinava Radio Alice insieme a qualche altra radio in tutta Italia, però in particolare Radio Alice era la presa di parola e anche l'uso di un linguaggio assolutamente codificabile, perché in realtà bisogna parlare di tantissimi linguaggi diversi che si esprimevano attraverso quella radio. È un pugno nella comunicazione, ha ribaltato veramente tutto e ha anticipato. Ci sono delle cose che ancora oggi ricordano Radio Alice, le più strane. Penso alle Iene. Beh, le incursioni delle Iene in realtà avvenivano via telefono, con un'unica linea telefonica si telefonava al questore addirittura e lo si metteva in imbarazzo in diretta. Addirittura c'è una mitica telefonata che fece Franco Berardi ad Andreotti facendosi credere Gianni Agnelli e in continuazione c'era questa possibilità di recepire dal territorio le voci delle persone in coda alla mensa. Io ricordo la prima volta, proprio la mia prima esperienza radiofonica in diretta è stata nel raccontare una coda davanti alla mensa universitaria che aveva bloccato la strada. Invece di fare la coda nel solito modo avevamo deciso all'impronta di insieme greci, iraniani, è una popolazione assolutamente mista, di farla in mezzo alla strada e c'era la cabina telefonica rigorosamente, gettone e telefonata in diretta senza filtri a Radio Alice. E questo era la rivoluzione, c'è poco da fare. Era il 1976, non a caso appunto la vigilia del 77. Bellissimo. Volevo fare un'altra domanda a Mirko, poi dopo ritorniamo al discorso della radio. Tu eri militante politico di Lotta Continua e ho letto in un articolo che secondo te uno degli aspetti più interessanti di quegli anni di fare politica era che le decisioni non erano prese da pochi, ma da tanti, ed erano veramente tanti. No, in realtà il 77 è questo e rompe rispetto anche all'esperienza dei gruppi cosiddetti extraparlamentari, Lotta Continua compresa, cioè quello che succede da Radio Alice fino a 77 è proprio la rivoluzione della comunicazione che attraversa e in certi casi sfalda, distrugge, li scioglie anche i gruppi della sinistra cosiddetta, oggi si direbbe antagonista, allora si diceva rivoluzionaria, extraparlamentare o cose d'altro, ma in realtà quando arriva la rivoluzione, soprattutto arriva nel linguaggio, nel comportamento, negli sguardi, nel modo diversissimo di vestire delle persone gli uni dagli altri, travolge tutto, mette in difficoltà chi comanda, ma mette in difficoltà anche il potere che è nelle piccole comunità che si credono magari appunto diverse, rivoluzionarie o altro, ma in realtà poi scopri che anche quelle sono conservatrici. E in effetti io mi sono trovato a vivere in quel periodo, e quel periodo mi è rimasto talmente dentro che sostengo presuntuosamente di vedere, anche a distanza di migliaia di chilometri in qualche caso, quel germe. Quando io ho visto, non so se vi è capitato, il racconto via internet della Puerta del Sol, dell'esperienza di Puerta del Sol a Madrid, lì ho riconosciuto, il codice di comunicazione era diverso, però ho riconosciuto quella cosa misteriosa che non si sa perché accade in quel momento, e dopo capisci sempre tutto, no? Quando fai l'analisi, ma non lo sai mentre accade, quella cosa misteriosa che è appunto il cambiamento radicale del modo di vivere, la messa in discussione del potere, ma anche del potere che c'è nelle relazioni fra le persone a te vicine, insomma. E questa cosa credo che stia succedendo, possa succedere anche oggi in questa crisi planetaria. E c'era una canzone famosa nel 77 che diceva, di Manfredi, e che in maniera poetica l'andava a cercare in tante piccole grandi immagini. Allora, c'è qualcosa che unisce la Tunisia, l'Egitto, quello che succede a Puerta del Sol come quello che succede a Wall Street, si manifesta in modo diverso. Noi la stiamo cercando faticosamente anche qui in Italia, con qualche difficoltà, perché appunto diciamo che il fronte della conservazione trasversale appunto resiste, però è quello che mi fa tornare a quegli anni, nel senso, ma uno magari potrebbe usare altre immagini. Il cambiamento, qualunque forma ha, è un'opera d'arte, cioè unisce, pensiamo alla Marianna di Delacroix o alla foto famosissima del maggio 68 francese con la ragazza sulle spalle, c'è qualcosa che unisce la rivolta, cioè la messa in discussione, che quel qualcosa che Pirandello dice il treno ha fischiato, cioè questo, il treno c'era tutti i giorni, ma c'è un giorno in cui il personaggio di quella novella sente il treno fischiare, e in quel momento tutto quello che c'era prima non sarà uguale. Quanto durerà questo momento magico dipende naturalmente, può determinare la rivoluzione, può determinare una rivoluzione culturale, artistica, però chi l'ha vissuta, e io ho avuto la fortuna, quello non è merito mio, mi ci sono trovato, chi l'ha vissuta la riconosce, difficilmente si sbaglia. Una domanda che io sì. Sto pensando, credo una domanda che noi abbiamo oggi è come il media, come la radio può essere rivoluzionaria un'altra volta, e come sarà questo diverso del 77, per esempio, no? Allora, io penso che le virtù poetiche e politiche della radio ci siano tutte anche oggi, anche se non è più la radio l'unico media che rompe il codice dall'alto verso il basso, no? E la radio dialoga, infatti noi siamo in streaming in questo momento, quindi siamo contemporaneamente per radio ma siamo anche con il computer. Quello che è rimasto in questo tipo di esperienza, cioè quella che stiamo vivendo anche in questi minuti, credo che appartenga anche alla radio, appunto, non in solitudine ma in relazione, che è la capacità di trasmissione orale, l'oralità, e quindi io parlo con te, esatto, come corpo, come voce, è quello che penso anch'io, ma non è soltanto un mio pensiero. Un importantissimo storico del Novecento, che era Mark Bloch, lo conosci anche tu, stavo per arrivarci, esatto, distrutto la battuta. Sono di formazione una storica. Siamo in due, Mark Bloch, lui diceva che in effetti l'oralità ci sarà sempre. Lui aveva fatto uno studio importantissimo durante la prima guerra mondiale, durante il periodo in cui era al fronte, sul come venivano trasmesse le informazioni, e io in effetti penso che la radio, appunto, non cesserà mai di venire a meno, di essere importante nella comunicazione e nell'informazione, appunto perché è orale, perché l'uomo è orale, perché si impara prima si impara a pensare, poi a parlare, a comunicare. su questo infatti ci sono, anche quando la radio va dall'alto verso il basso, ci sono illustri racconti di come abbia la capacità di entrare nella comunicazione della gente. Nel film di Woody Allen si ricostruisce un episodio vero, quello in cui Orson Welles via radio disse che erano arrivati gli alieni sulla Terra, e nella piccola provincia americana la notizia falsa determinò effetti veri, perché esatto, appunto ci fu questo aspetto. E la radio nel maggio francese, c'è un manifesto del maggio francese famosissimo, dove c'è una specie di, c'è un vecchio apparecchio radio, e la frase è, lo dico in italiano, la radio mente, perché quel tipo di radio appunto è la radio, e l'esperienza della radio libera rovescia e mette il racconto orale, quello che c'è sempre stato, quello che riporta ad esempio Nuto Revelli nel Mondo dei Vinti, ed è la possibilità di raccontare attraverso il linguaggio, che in quel caso è molto un linguaggio di donne, e trasmettere memoria attraverso i racconti del territorio. E la radio la radio libera è esattamente questo, no? È la trasmissione di storie orali. Ovviamente lo storico la prende come elemento insieme agli altri, esatto, perché fa parte della narrazione e va incrociata con i documenti, eccetera, però determina effetti veri, anche se la notizia che passasse attraverso la radio non fosse... Io ho, per esempio, verificato che ci sono alcuni luoghi tipici del racconto orale, e che avvengono in determinate situazioni critiche, episodi che hanno attraversato attraverso la voce e poi nelle radio libere, che sono dei classici del falso, tra virgolette, che ricorrono in varie culture diverse, in varie nazioni diverse. Famosi episodi legati soprattutto all'oralità della Prima Guerra Mondiale, che attraverso la radio venivano raccontati come veri, e in realtà venivano raccontati come veri nei due fronti opposti, sì, quello francese o quello tedesco, cambiava il protagonista, esatto, ma l'episodio era lo stesso. Il famoso bombardiere eroe che non moriva mai, quando passava lui si sapeva che era lui, perché era francese, era tedesco, era inglese, a seconda delle culture, e queste cose venivano riportate appunto attraverso la radio. Quindi la cosa più vicina alla voce della trasmissione orale, da questo, sì, punto di vista, credo che internet ha ereditato questo. Pensate a quanto dobbiamo ad internet, quanto la rivoluzione nel Nord Africa, per dire, o il non aver creduto alla favola della crisi, perché noi abbiamo in mente un altro ragionamento magari su quello, dipende dal fatto che accediamo direttamente alla comunicazione, no? E le radio libere hanno determinato questo, la possibilità, e al tempo stesso anche un sacco di sciocchezze. Cioè, se io penso anche a tante telefonate che ricevevamo che non avevano fondamento nella realtà, così come se tu maneggi internet trovi anche delle solenni corbellerie. Naturalmente devi comunque avere un tuo codice interpretativo, e credo che comunque il parlarsi, l'attraversare il mondo reale, i corpi che si incontrano, sia un aspetto che comunque sia fondamentale, a prescindere dal mezzo che usi, insomma. Vuoi intervenire? Beh, no? Insomma, mi sembra un racconto appunto entusiasmante di quegli anni, e credo che è vero che internet abbia raccolto questa eredità, ma in fondo forse appunto sono di parte, essendo una radiofonica, però credo che il fattore voce, il fattore racconto sia cruciale, importante anche oggi, che naturalmente è possibile seguirla anche su internet, come sta avvenendo in questo momento. Ecco, credo che il racconto, che sia artistico come quello che cerchiamo di fare noi o della realtà, abbia tutta un'altra forza proprio attraverso la radio, attraverso la voce. Anche quando si parla di temi di politica e di attualità, io vedo che quando si è in radio e quindi si è privati dell'immagine, si assume un altro atteggiamento. Non so se avete notato, la sera sì. prima ci sono i politici in soliti salottini televisivi che si insultano in modo straordinario su qualsiasi questione, la mattina dopo nelle trasmissioni radiofoniche che si occupano di attualità assumono tutta un'altra dignità, un altro atteggiamento, sì. si sforzano di insomma sforzano di esprimere le proprie ragioni con più calma, con più educazione, no? rende seri la radio forse, ah, forse sì. Ma Radio Alice insomma ci raccontava che era seria, ma c'era anche spazio per molta ilarità e credo sia fondamentale. Non c'era un capo e non c'era una coda, questa era la sua forza appunto dirompente e c'era molta densità culturale, per cui assolutamente era ribaltare tutto, e ognuno portava il suo codice. Devo dire che quelli che l'hanno fatta Radio Alice sono forse tra le persone che io ho conosciuto, conosco, alcuni sono ancora miei amici, tra le persone più brillanti che io abbia mai conosciuto, nel senso che hanno avuto quella sensibilità di cogliere il momento e di fare impresa, se l'avessimo usato allora questa parola radiati da Radio Alice, che... però appunto hanno messo in opera qualcosa che è veramente straordinario, hanno messo la loro molto densa capacità intellettuale personale espressiva eccetera al servizio di un magma che stava mettendo in discussione anche le forme di contestazione che si erano determinate negli anni 60 e nei primi 70, e questa la grandezza di questi. E tu ci confermi, posso fare una domanda? Tu ci confermi che nel momento in cui si è realizzato questo momento eccezionale, come anche quello di Radio Alice, voi che ne eravate protagonisti non vi rendevate conto effettivamente che stesse avvenendo qualcosa di speciale, oppure sì? Dunque, io che transitavo in Radio Alice sicuramente non mi rendevo conto, nella mia testa era la prima volta nella vita che se dicevo delle cose in un posto che non fosse un'assemblea mi poteva ascoltare della gente un po' dappertutto che voleva dire poi 5 chilometri quadrati, niente di più. Credo che come ogni persona che inventa qualcosa, loro stessi, parlo di Maurizio Torrealta, di Giancarlo Vitali, di Luciano Cappelli, di Francesco Berardi e me ne scordo Andrea Zanobetti e me ne scordo altri e altri, no, quello non ha, no, per Radio Alice non c'entra. Loro stessi hanno individuato la miniera. Ma fino in fondo forse non hanno, sicuramente se fossero qui lo direbbero e forse ve l'hanno già detto questi giorni, loro stessi non avevano la percezione che stavano veramente facendo una rivoluzione nella comunicazione attraverso quel povero mezzo. Ci sono queste, c'è una scena che è riportata all'ingrosso, però insomma è riportata nel film Lavorare con lentezza, ce ne sono diverse, la fuga quando la polizia irrompe. Beh, noi l'abbiamo vissuta e io conosco le persone che sono finite che sono andati sui tetti, sono riusciti a scappare, conosco le persone che invece non sono riuscite a scappare, e quel momento lì quello sì non è reducismo, cioè ognuno racconta di quegli anni, ha il suo racconto di quegli anni, e certe volte ho la sensazione che non c'è molta differenza fra il racconto di uno che ha fatto il 68 e il 77 e il racconto di mio babbo che ha fatto l'alpino in Albania, se non recuperiamo appunto quelle schegge importanti in cui veramente abbiamo fatto una piccola o grande rivoluzione. Ecco, quei ragazzi lì che hanno tenuto viva la radio fino all'ultimo, che sono riusciti senza avere paura non solo della polizia ma anche della gente che telefonava da tutte le parti della città e che poteva anche magari dire cose improprie eccetera, e l'hanno fatta e l'hanno mandata in onda. Quelle cose lì credo che hanno un valore che va bene, che hanno un valore, mi viene da dire, preveggente da una parte e dall'altra parte molto antico, perché la rivoluzione è molto antica e anche molto moderna, no? E credo che a loro dobbiamo qualcosa, perché è vero che era un movimento in cui c'era gente che a un certo punto andava via dalle manifestazioni per andare a fare una festa ai Giardini Margherita, è vero questo, c'erano migliaia di persone che andavano un po' anche per conto suo, ma credo che senza quel gruppo lì, che a un certo punto dico va bene, sì, siamo d'accordo, però chi è che si occupa di andare a trovare la spina giusta o il mixer, chi è che ha i dischi in casa da portare, perché poi la radio si faceva con mezzi poveri, ma bisognava comunque andarli a cercare, chi è che affitta un posto, chi è che pulisce quando abbiamo finito, insomma. Sì, certo. Beh, io faccio una domanda a tutti e tre, secondo voi, i quattro anche con Giorgia ovviamente, secondo voi la radio è ancora uno strumento portatore sano di rivoluzione culturale, di informazione, di possibilità? Che risponde per primo? Io? Sì, prima una professionista. Giustamente. Senz'altro sì, cioè, naturalmente bisogna intendersi sul peso della parola rivoluzione. Sì, infatti dicevo rivoluzione culturale, ecco, di informazione. Sottolineerei la parte di culturale, ma sicuramente sì, anche perché... la radio credo trovi anche la sua forza nell'essere fuori dalla logica televisiva. Prendiamo uno stato a caso, quello italiano, in cui chiaramente la forza, l'impero dell'immagine, l'impero della televisione, soprattutto naturalmente la televisione commerciale ma anche quella pubblica, ha cambiato quasi il genere umano, ha mutato le condizioni culturali del nostro paese. Insomma, in effetti la radio, soprattutto le radio che poi si sforzano di fare cultura, è chiaro che rappresentano una sorta di isola felice in cui è possibile confrontarsi senza questo imperativo proprio dell'immagine, dello spettacolo, dello spettacolo anche triviale, insomma al ribasso al quale assistiamo tutti i giorni, no? Quindi credo che questo sia un aspetto fondamentale, cioè è fuori per ontologicamente proprio per le sue caratteristiche essenziali da quello che è il continuo spettacolo televisivo. Anche se credo siamo in un momento in cui il mezzo televisivo, proprio grazie a internet, grazie a tutte queste esperienze indipendenti, stia vivendo un momento di minore importanza. Non è più soltanto l'unico rappresentante, l'unico referente per quello che riguarda l'informazione, il divertimento. Ecco, mi sembra si intravedono dei segni di mutamento. Speriamo. Risposta. No, d'accordissimo con quello che dice lei, sempre concependo la radio appunto in contemporanea con con sorella internet, nel senso che ormai le due cose si sovrappongono, ormai anche però sul piano, giustamente tu dicevi, televisivo, faticosamente si esce dal monopolio appunto andando ad allacciarsi con altri strumenti di comunicazione, senza dimenticare che ancora oggi per milioni di persone quello che sta in quella scatola e che viene dall'alto in TV è molto importante, e per quello che contano le elezioni si vincono per un pugno di voti che può essere l'ultima deciso sera del faccia a anche dal voto. Però ecco, la cosa nuova che sta accadendo e che segna un po' il cambiamento di questi mesi, è che come visivamente stanno insieme masse di giovani con anziani nell'accampamento di Madrid, per esempio, così anche molta gente grande, over 50, over 60, molta gente sempre più non si affida più alla TV, ma comincia invece a usare altri mezzi. Beh, i dati parlano chiaro, c'è comunque un abbassamento dello share televisivo molto evidente, e invece il consumo culturale anche in Italia cresce, soprattutto in questo momento di crisi è sorprendente, ma insomma gli ingressi nei musei sono aumentati del 31% negli ultimi 2 anni, si continuano a comprare libri, cataloghi, quindi comunque evidentemente qualche numero testimonia proprio questo spostamento. Sì, in fondo, adesso diciamolo, dopo è sempre... Dopo si può sempre dire, io l'avevo detto, quindi evito di dire questa cosa, però quando ci siamo trovati al referendum sull'acqua, sì, abbiamo visto che evidentemente la comunicazione passa, sì, per tanti passa, altri canali. Cioè, sì, no. Infatti. Ma infatti era anche un discorso che abbiamo trattato prima all'inizio della nostra conversazione con Elena, in cui dicevamo appunto che l'apporto di internet per la radio è stato fondamentale. Per proprio come rinnovamento e per dargli una spinta propulsiva ulteriore. Assolutamente, basta pensare a tutti gli ascoltatori che non possono seguire la trasmissione in quel momento, naturalmente, in cui viene messa in onda, ma se lo scaricano in podcast e se la sentono in metropolitana alla sera, e mi sembra stupendo. Come speriamo che succeda a noi. Certo, come ovviamente succederà a noi. Pablo, vuoi aggiungere qualcosa che alla fine... Non so se può aggiungere molto, ma può dire che negli Stati Uniti e in Latino America in generale la radio è il mezzo progressivo, è il mezzo liberale, perché la radio è universitaria, perché la radio è più giovane e perché è si può fare più facile che la televisione, tutte queste cose, no? E anche... Per quel che tu dici dell'internet, no? È la stessa cosa. Negli Stati Uniti abbiamo NPR, la National Public Radio, che fa questo lavoro di riflessione più intelligente, davvero dibattito delle problemi sociali e politiche del paese. Ma questo non si vede mai nella televisione, non si può vedere, si vede un po' nel New York Times, ma la posta sta va a disparire, ma sta come si dice, il newspaper, no? Come nei giornali? Quotidiani? No, sì, quotidiani. Sì, il quotidiano non va a esistere più, ma la radio può continuare. La radio continua, sta continuando in questo momento. Sentendo voi mi è venuto in mente infatti una cosa, che paradossalmente c'è chi dice, ed è vero, che con internet rischi di andare in una dimensione in cui alla fine parli solo con quelli che la pensano come te. Poi i programmi di ricerca si sono così raffinati, per cui mi sono accorto che il mio computer, quando io comincio, digito una mia parola chiave, capisce già cosa vado a cercare. E quindi il rischio è che appunto si formino delle comunità dialoganti tra loro, ma non comunicanti, cosa che invece la radio, perché è voce, perché ti muovi, la senti in macchina e quindi da un posto all'altro ti cambia anche la frequenza, e improvvisamente invece ti parla un'altra lingua, hai la possibilità, se fate caso, molte radio ricevono telefonate da ascoltatori che non la pensano come quelli che stanno facendo la trasmissione. È vero, no? È vero come no, certo. E quindi questo è già un segnale, ma anche quelle più orientate, io in un senso o in un altro, ti capita quello non previsto che passa il filtro, se c'è il filtro, oppure a volte non c'è il filtro, però gli ascoltatori si specchiano col conduttore, il conduttore si specchia, arrivano comunque delle voci che non sono in sintonia, che sono comunque una ricchezza. Certo, noi arrivano sempre degli sms di ascoltatori arrabbiatissimi che insultano il conduttore ospiti, oppure nel caso di A3, che appunto non sono assolutamente d'accordo sull'odi fatte ad un artista piuttosto che ad un altro. Come no, sono molto, soprattutto gli ascoltatori di Radio 3 sono temutissimi, sono dei veri critici, veri critici, quindi sì, sì, sì. Radioformatori culturali o nonché informatore. Infatti una domanda che avevo posto prima, che magari è ampia a tutti voi, a Elena, era se effettivamente la radio, quindi anche con la tua trasmissione, col tuo lavoro, riesce effettivamente a diffondere la cultura, a diffondere l'arte, riesce quindi ad arrivare a quei canali che magari noi curatori vorremmo arrivare, ma non ci riusciamo. Beh, naturalmente parliamo ad un pubblico molto, ma molto più ampio che non a quello degli addetti ai lavori. La cosa interessante e divertente è vedere come spesso gli ascoltatori vanno a vedere le mostre consigliate o nell'Art Parade oppure nella prima parte della trasmissione e vanno appunto nei musei eccetera, sono venuto perché l'ho sentito in radio e dicevano questo e questo, poi molto spesso si arrabbiano anche perché magari appunto non gli sembra meglio, gli sembrava molto meglio sentirla raccontare in voce che non vederla, questo è anche un rischio enorme. A me è successo che uno è venuto proprio in radio a sgridarmi perché nella trasmissione di presentazione di un libro in qualche modo avevo fatto un po' da spalla l'autore e lui era andato subito a comprare il libro non gli era piaciuto, dice mio, ho sentito cosa dicevi, come si fa? No? Per fortuna Radio 3 non c'è questa facilità di ingresso, accesso. Però insomma c'è cioè, quello telematico molto forte. In effetti. Bene. Ti ringrazio Mirko della partecipazione, è stata grazie a voi della grazie. Conversazione. Grazie. Pablo, mando il jingle e vado a breve pausa. Elia Media. Altona attivato. Molti media. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. Ignoti a Prodi, quali trasformazioni sta attraversando Bologna? Quali futuri possibili realizzerà e quali a Prodi scarterà? Se ne parla con economisti, architetti, scrittori e altri sguardi per ipotizzare, analizzare, sfruttare gli approdi possibili e creare un agire in comune. Elia Media. Media. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. www.aeliamedia.org